Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ormai ci siamo, è questione al massimo di qualche anno, i primi robot umanoidi faranno il loro ingresso nelle nostre case. Lo dimostra il fatto che dalla progettazione di robot ultra sofisticati, capaci di esprimere l'eccellenza delle abilità robotiche, molta ricerca e progettazione si sta spostando su come invece tradurre le conoscenze di robotica acquisite fino ad oggi in prodotti consumer, possiamo dire così, dal costo abbordabile. In questa sfida si sono cimentati anche 22 scienziati e tecnici dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, che in 16 mesi, a partire dall'esperienza acquisita con il robot umanoide appunto d'avanguardia, ben noto iCube, hanno progettato un robot domestico destinato alla produzione in serie. Si chiama R1 e ce lo facciamo raccontare, presentare da Giorgio Metta, che è vice direttore scientifico dell'IIT e già direttore anche del progetto che appunto ha portato a suo tempo alla nascita del robot iCube. Buonasera Metta. Buonasera, buonasera. Allora, senta, intanto descriviamolo fisicamente questo robot. Allora, 1,30 m, fattezze umanoidi, quindi ha due braccia, non ha le gambe per questioni di sicurezza, gira su ruote. Tipo Segway per capirsi, tipo no? Due ruote. Mani per poter manipolare l'ambiente che lo circonda, afferrare delle cose. Invece però solo faccia, con un pollice e una specie di ditone, no? Semplificate, sì. E invece di una faccia abbiamo uno schermo che può rappresentare diverse espressioni, quindi ha gli occhi ma sono disegnati, certo. Li può muovere, può sorridere, può fare un po' quello che serve per interagire con l'essere umano, però poi dietro lo schermo in realtà ci sono i sensori, le telecamere per la visione tridimensionale, microfoni, tutto quello che serve per poter sentire e vedere il mondo che lo circonda. È anche dotato di tatto questo robot, vero? Sì, esattamente, come iCube ha dei sensori tattili che coprono parte del suo corpo in modo da poter sentire quando viene toccato magari dal suo proprietario oppure se sbatte per sbaglio contro un oggetto. Certo, da un lato per essere in grado il feedback sensorio, diciamo, che serve per manipolare gli oggetti, dall'altro se c'è un contatto accidentale se ne accorge, diciamo così, il robot. Ecco, che cosa saprà fare e anche come si potrà interagire poi affinché questo robot si muova, agisca? Il robot è pensato per attendere applicazioni domestiche, quindi vuol dire che potrà prendere delle cose, spostarle, trovarle, ricordare dove sono. In pratica vorrà dire poterci preparare magari dei semplici piatti da mangiare, riscaldare delle cose per noi, mettere in ordine un po' la casa, quindi se trova delle cose da mettere a posto lo potrà fare, magari dare l'acqua alle piante, vedere se stiamo bene, interagire con noi, riconoscere chi c'è in casa, riconoscere chi ha la porta. Non potrà però magari aiutarci a fare le scale o sollevarci dal letto, quindi non andrà a sostituire il badante. Ecco, e come ci si comunica con il robot? Ci si parla? Si può parlare, ma si può anche gesticolare in qualche modo. Il robot, usando la visione, è in grado di capire se io sto indicando un oggetto, per esempio. Può riconoscere chi è la persona con cui sta parlando dal viso. Certo. E poi sì, la parola sarà la cosa più importante. Probabilmente anche la parola via telefono cellulare. Quindi ah, certo. Io sarò in grado di chiamarlo e chiedergli di fare delle cose. Magari con qualche app appropriata potrò anche indicare, non so, nella mappa della casa dove penso che lui debba essere o debba andare a trovare una certa cosa. Ecco, senta, diceva per esempio che questo robot non sarà in grado di sollevare una persona, non perché sia, come dire, un problema in sé dotarlo della forza necessaria. C'è un problema di sicurezza, quindi esistono già delle direttive che dicono come devono essere fatte le macchine, i robot, quando interagiscono con l'uomo. Purtroppo, ma anche appunto per questione di sicurezza, la forza deve essere limitata e anche la sua velocità. Quanto prevedete che costerà questo robot? Al momento, e noi abbiamo solo fatto un progetto con dei prototipi, è un robot che va sui 25-30 mila euro. Attendere, quindi quando andrà in produzione, con una produzione di massa, diciamo, poi di massa, allora potrebbe arrivare al prezzo di un elettrodomestico sofisticato, uno schermo TV di alta qualità, quindi 3.000-4.000 euro. D'accordo. A quel punto sarebbe molto più abbordabile, molto più pensabile veramente di averlo in tutte le case. Ecco, quindi insomma ci siamo davvero, stanno per entrare questi robot, già ci sono ma non sono umanoidi, questo invece ha questa caratteristica in più anche di intelligenza e flessibilità che non ha il robot, per capirsi, che pulisce il pavimento. Insomma, stanno per arrivare. Dipende da quello che ci aspettiamo da queste macchine. Noi pensiamo che alcune applicazioni saranno possibili, quindi quelle che dicevo prima sono immaginabili. Se poi invece immaginiamo un robot che io porto in casa e impara a fare qualunque cosa, lì diciamo siamo lontani ancora da quello scenario. Ecco, ma R1 dove andrà? I primi R1 lei pensa che andranno nella casa di qualche persona magari un po' facoltosa o dove? Ma la grande maggioranza pensiamo che sarà utilizzata per applicazioni di business, potrebbe essere l'aeroporto, il centro commerciale, potrebbe essere l'ospedale, dove il costo più elevato viene assorbito in qualche modo dal costo dell'infrastruttura. Va bene, grazie Giorgio Metta, fateci sapere come va a finire, se trovate anche qualcuno che ve lo produce soprattutto, se riuscite a farla partire questa cosa, tra un anno, tra quanto? Ma immaginiamo che per l'industrializzazione ci vogliano 18 mesi e per fare l'industrializzazione ci vuole un investitore che scommetta su questo progetto e lo faccia diventare effettivamente qualcosa di commerciale. Grazie ancora Giorgio Metta. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.